Allora, utilizziamo questa base perché l'entrata in voce di oggi riguarda la nuova frontiera del femminismo italiano. Di che cosa parleremo mai? Dopo personaggi come Aretha Franklin, sì, dopo Christina Wolf, dopo tutta una serie di... Tina D'Avena. No. Vabbè, un po' anche lei, voglio dire, ha detto la sua. Se non lo diceva era meglio, ma è uguale. Dopo tutto questo, la nuova frontiera per l'appunto è quella rappresentata dalla capostipite, diciamo, di questa nuova corrente, sì, che è, come tutti sanno, Anna Tatangelo. Ma dai! Sì. Anna Tatangelo, che proprio per portare avanti, diciamo, le richieste e rivendicare al mondo quello in cui lei crede, quello in cui tutte le persone che si porta dietro dovrebbero credere, credono, ha partecipato a Sanremo con un testo che si intitola Essere una donna. Oh, una donna che canta Cosa sono le donne. Esattamente. Una donna che parla di donne. Esattamente. Quindi noi analizzeremo il testo della Tatangelo, sì, e ci renderemo conto quindi qual è la nuova donna del 2006. Ok. Meno male che c'è la Tatangelo, quindi guarda. Dopo ci dovremo comportare come dice lei. Certo, ovviamente è un modo per spingere gli ascoltatori ad aderire a questo correntone. Correntone. Quindi donne all'ascolto, votate, ma anche uomini, prendete carta e penna e diamoci un po' da fare. Votate Tatangelo. Allora, la canzone inizia così. Con quegli occhi attenti, come spilli ardenti, mi frughi. No, mi frughi, no, come mi frughi. Nel senso, sai proprio gli occhi quelli che indagano, che sì, tentano di che andare dentro, non solo metaforicamente, insomma. Sì, ma non è una metafora, dici? Ma secondo me qui è solo se una sottile metafora. Spillo, non è che è un rapporto di quelli... No, però sono... No, vabbè, dai, è una metafora, non è che... Appunto, cominciamo con gli spilli. Però si parla di occhi, quindi sguardo pungente, sguardo che ti entra dentro, lo sguardo mica altro. Che è l'inizio della canzone, se mi parte già fomentato dal lato fisico, dove andremo a finire? Va bene, ok. Come un lupo attendi, lupo, comunque la caccia, eccetera. Lei la preda, lui è il lupo. Fin bene il rapporto di coppia tra Tangelo. Dentro l'anima discendi. Indaghi l'anima. Non ho detto niente io. Dentro l'anima discendi, indaghi sempre più. Si chiama indagare. A casa mia si chiama in un altro adesso modo. Adesso si chiama che mi frughi l'anima. Ora lei va ad affrontare il modo in cui lui la vede, senza rendersene conto tra l'altro, però lo fa, lo canta. Ti sembro quasi una farfalla. E vai, è un'altra della farfalla. La metafora della farfalla. La scuola della farfalla. Certo, esiste la scuola di Genova, dei cantautori di Genova, e poi quella della farfalla. Cantori. anche cantori, per rendere tutto un po' più aulico, che cantano di farfalle. Sì. Ovvero di donne. Come, no, di farfalle buzzo. C'è una chiara donna anche qui farfalla, Zarrillo, no? Lo Zarrillo, il poeta Zarrillo, lui diceva nella sua canzone che era un elefante, invece, no? Quasi a rappresentare il fatto che lui non riesce a raggiungere e ad impugnarla, neanche a sfiorarla. Questa farfalla la distruggerebbe, punto e basta. Tu la vedi così la metafora? Io l'ho sì, vista in un altro modo. Tipo? Pieca. Cioè? Farfalla. Sì. Dici come da piccola nonna, che la chiami farfallina? Dai, è l'elefante, la proboscide. Allora, okay, siamo in radio, se non fate gesti, per favore. E va avanti. Sì. Un giocattolo, una palla. Che è sempre lei, no? Lei si sente un giocattolo. No, e una come palla. La vede lui? Ah, lui la vede come un giocattolo, come una palla. Che giocattolo potrebbe anche essere? Tra tutti i giocattoli che c'erano, mettici, che so io, il grillo parlante. Forse non stavi in rima, mi vedi come un grillo parlante. Forse. Mi vedi come una palla. Cluedo. Posso anche forse rappresentare il fatto che lei sia un po' noiosa. No, la Tatangelo secondo me spara barzellette. Sarebbe un tentenno. Quindi dici che non è un'autocritica. No, questa poverina. Pensi che lei sappia cosa vuol dire autocritica? No, il suo uomo. Come direste? No. Ecco, il suo uomo gli ha detto, sei una palla, e lei ha capito giocare. Giocattolo, porca miseria Anna. E poi dice le donne, sì, da prendere. La palla. La palla. Dice, sì, da prendere. Non è che puoi prendermi e sbattermi al muro come una palla. Ma allo come se fossi una farfalla. Che è diverso. Che è come la palla. Consideri essere o forse evidente. Vuole l'amore sadomaso. No! La palla la prendi a calci. Il messaggio è che vuole l'amore sta domani. Okay. Andiamo avanti e vediamo se conferma questo messaggio. Vediamo. Dimmi il tuo amore cosa vale. non chiedermi niente. Dimmi che hai bisogno di me. So che mi vedi come il miele. Qui sì, c'è anche la me- mi, però dice mi vedi come il miele, se non sbaglio è un ossimoro questo, non mi gusti come il miele, mi vedi come... Allora l'ossimoro è un'altra cosa. Dunque, tu no, dici che ci ha pensato? No, ma non va niente, non è semplicemente. Però c'entrava mi gusti, mi gusti? Guarda, se tu ci pensi, mi, certo faceva mi gusti come il miele, c'entrava? Sì, effettivamente. Oppure ci stava meglio. Allora potremmo dirle, guarda, sarebbe stato bellissimo se avessi scritto gusti, invece purtroppo è passivo. Che mi vedi? Ah, mi vedi come il miele da mangiare tu. Qui ha un po' di problemi in sintassi, però insomma. Da mangiare tu, è tarda la Tatangelo. Da mangiare tu, da giocare tu, palla io, farfalla. Dai, fare senza una domanda. O è una licenza poetica. Oppure non ha fatto le medie, insomma, sono le due cose. Ma ti stai sbagliando, sai? Io non sono una ciliegia. No, vedi però che mi attraversa tutti i campi semantici, no? Delle metafore animale. No, che altro oggetti, è andata dalla farfalla. Quindi perché se io penso alla farfalla penso anche all'elefante e Zarrillo. È chiaro. Non solo io, però secondo me non solo io. Tu e Zarrillo. Io e Zarrillo. Passa dagli spilli all'elefante di Zarrillo con la farfalla, invece la cosa culinaria, tipo 9 settimane e mezzo, miele la ciliegie. Scena dove fanno, forse si vuole fare Zarrillo ricoperta di miele e con delle ciliegie appoggiate sull'orecchio che fa tanto aria, e quindi contadinella inesperta. Vediamo se lo conferma nel ritornello. Vediamo. Essere una donna non vuol dire riempire solo una minigonna. Oh, riempire. Cotechino. La mattina si sveglia, apre l'armadio e dice con che cosa mi riempio oggi? O riempio che cosa mi riempio col mio corpo? Con una, per fortuna ce l'ho detto lei, perché io effettivamente ogni tanto la mattina ho dei dubbi, ma che sarò ma solo dai, un ripieno di minigonna? No. Non vuol dire credere a chiunque se ti inganna. Che mi sembra scusato, lo sai che ti inganna vuol dire, se lo dici, se ti inganna vuol dire che lo sai che ti inganna, quindi non gli devi credere a meno che tu non voglia boccare. Ma questa è l'anima delle donne che vogliono fare. Rotto le scatole questa figura della donna tu idiota. Fai finta di non capire. Cioè io non ci sono, io ci faccio un po' idiota. Voglio farmi male. Un po' il ripieno di minigonna ci fa. Un po', ho capito? Sì. Voglio un po' raccontarmela. Sì. Me la racconto. Così io mi butto là delle cose ogni tanto e noi cerchiamo di dargli un senso. Esatto. Un po' come stiamo facendo col tacco della Tatangelo. Comunque, essere una donna è di più, di più, di più, di più, di più. Di più, di più. No, no, Elisa, dai! Ma no, dai, rilassati. No, è che è un chiaro, dai, metafore. Di più. E a questo punto sì, passa ad elencare il manifesto della donna del 2006. Pronta? Dai, appunti, sì, dai. È sentirsi viva, che è già un buon punto, perché essere una donna e sentirsi morta non è una bella... Sei morta. Diciamo che le interazioni sociali sono quasi zero, però... È la gioia di amare, che non è sempre una gioia, ma insomma... Gioia e amare sono due termini che nel mio magico mondo non possono accostarsi, però vabbè. E che non vengono mai inseriti comunque nei testi delle canzoni. Sì, gioia e amare. Di sentirsi consolare. Oddio, sempre stabilissimo. Allora, se c'è la gioia e c'è l'amore, non c'è bisogno di essere consolate. Basta, goditi un po' questa vita, Anna. No. Dai, sei una donna di successo. 19 anni, vai in giro come una trentenne. Sei una figa da paura, dai. No, allora, Anna, figa da paura. No, sa chi riempie la minigonna con il suo perché, no? Con una certa classe. Anzi, sì, le calze a rete, tipo cotechina, sì. No, aspetta. Stringere un bambino forte, forte. No, il desiderio di maternità, no? Cioè, 19 anni. Cioè, allora, goditi un po' sta vita. Non siamo nel 1600. Ma c'era il ciccio bello sul palco di Sanremo? Capito? C'è l'omologazione, però, capito? C'è la donna vittima, la donna che vuole il bambino. Guarda, mentre dici questo, vedo che vorresti bruciare il tuo reggiseno. Lo vedo che fremi e fare dei segni a triangolo con le mani, però non so che cosa intendi. Quindi stringere un bambino forte forte dove lo stringi? Sopra il seno? Sì, vabbè, la culla, no. Donne al bivio, Anna Tatangelo, la mano sulla culla. Sì. Con un vero uomo accanto a te. Ah, certo, l'uomo un ciccio bello non è... o un bambolotto gonfiabile sarebbe poco costruttivo. Non esiste. L'uomo vero? Non esiste. Ma c'è solo il transgender. C'è il transgender. Ma no, però che vuol dire uomo vero? Vabbè, dai, che arriva quello che torna. Allora, tesoro, sono a casa con no, la birra. Allora, tu sei andata avanti, perché il prossimo Sanremo, la Tatangelo sarà essere un uomo. Ah, ok. Quindi sarai postulati per essere un uomo, e poi avremo la coppia perfetta prima o poi. Esatto, una cosa alla volta, Paola, tu sei troppo avanti anche rispetto alla Tatangelo, quindi veramente sei di fuori dal mondo, e il mondo ti ringrazia. Comunque, con un vero uomo accanto a sé, essere guardata e a volte anche seguita. Dai, poi stuprata, non lo so, dai. Guardate, a volte anche seguita. Ma questa cosa non mi sono persa un po'. Essere una donna. Essere guardata a volte anche seguita. Sì. Vabbè, però aggiunge, mi pesa. Cioè, quando mi stai troppo sul collo, mi pesa. Ho bisogno dei miei spazi. Questa è proprio finta. Ma di quelle che magari dici mi sto seguendo, faccio finta di niente, però mi piace che mi segui. Mamma mia, mi ha chiamato 30 volte, che palle. Poi, non esiste, non è se vero. Ti chiamava 29 volte ti offendevi, allora per favore basta. Certi complimenti, se sono rozzi, poi ti senti offesa. Ma dai! Bel ripieno di minigonna, vieni qui che c'ho una zucchina. Io guarda, più rozzi sono e più me li tatuo sulla pelle. Giustamente. Ti senti come una farfalla, un giocattolo, una palla da prendere. Ma non è amore, poco vale sentirsi come il miele, da mangiare. No! Qui il sardo torna però. Poco vale non era prima però, parola. Esatto, poco vale. Ti stai sbagliando, sai, sono davvero un'altra cosa. Oggetto, donna, oggetto, se lo dice da sola. Qui c'è di nuovo il ritornello che insomma è stato così forte la prima volta che eviterei di raggiungere quei picchi di poesia. No, rileggendolo. Sarebbe eccessivo. Io non cerco un'avventura. No, vabbè, dai, 19 anni, vuole un figlio la Tatangelo, abbiamo capito che vuole un figlio, vuole accasarsi. Un uomo, un figlio, una palla, delle farfalle. Ed essere stuprata da Zarrillo. Okay. Ma il compagno che vorrei, che tra un bacio e una risata mi farà dimenticare. Un pugno e una carezza, dai, per favore. Ah, qui sono solo immagini positive, il bacio e la risata. Non riesco a immaginare. No! Per dire, dai. Mi farà dimenticare i problemi intorno a me. Che chissà quali sono, perché adesso non ne ha parlato solo di condizioni sentimentali. Perché a 19 anni, tu che stai a Sanremo. Bella mia. Canti da 16 tu anni. Tu che ne sai, tanto per citare. Che ne sai, con il problema preso la vita. Probabilmente i problemi che gli ha suscitato il cantare questa canzone. Sì. Essere una donna vuol dire? Vuol dire. Anche complimenti. Vuol dire provare dentro veri sentimenti, non falsi, eh? Perché lo sai, c'è un sentimento che dice ma sarà vero o sarà falso? E lei sta le notti e le notti a farsi queste domande. Non lo so. È frenare il pianto e il dolore che tu senti. No, Anna, non frenare il pianto. Fatti un bel pianto, sfoga tutto e vedrai che il giorno dopo ti sveglierai e sarà tutto più bello. No, è la nuova frontiera. È questa la verità della Tatangelo. La nuova frontiera della soffrire. Donna del 2006 deve soffrire, ma non lo deve far vedere e soprattutto non deve piangere. E perché lo deve far vedere a noi? Cioè, vabbè, è un trans la Tatangelo. No, forse era questo il problema insito nella Tatangelo. Nella minigonna della Tatangelo. Ecco come essere di più, essere di più, essere di più. È un transgender la Tatangelo. Addirittura manco lesbica, addirittura transgender. Sì, che è una di quelle categorie se che tu non ho mai capito. Che cos'è il transgender, potrei partecipare a questa conversazione. Ma non è un problema. Ma che è quando c'hai No, guarda così, ho il numero della Tatangelo, glielo chiedo direttamente a lei, va bene? Ok, adesso ti chiamiamo e se ci stai ascoltando, se puoi tenere il cellulare acceso.